non ricca ricetta, non povera. Come fai quando giova di solito? E vado giova così assai, che l'acqua penetra pure sotto i ponti. Come fai quando figlia ti chiagna? Come fai quando non appare niente un tuo fine settimana? Ci puoi messa figlia di casa, sabato lì si è buttato mare. E una vita che rincorre suona, seguendo l'istinto, non sapeva ero stanno. E non vuota diventi incolmabile quando si perde la vita una mamma. Su bicchiere per terra non te ne ammonita, ma solamente acqua piovana. E perché non dai se tu piglia che otteni? Ricca se guarda in spalla, yeah. O povero senza pensare, spunetto che c'è un mare minore. Perciò ricca se copro con belli, o povero assettato sotto all'androne. O povero guarda dall'occhio e dice perché papà ti fosse povero. O problema si tu a pensare che sei povero, solo perché tieni i soldi e allora muore. Quando la vita fa sì che altre cose da noi, o povero non tiene un lietto. O ricco sì ma non dorma, ogni cosa oggi tiene un prezzo. Ogni giorno un brutto momento, ogni nuvola tiene un buco. Per vedere se la luce traversa. Sognano quando virare o cielo esplodere. Una gelo scendere là, non mi vede perché. Copri me posso pure oggi abbracciare le mani. Ti abbracciate rimani in male, te vuoi. E tutta vita allora passo distratto con niente. Con poco, con troppo, con forse già faccio. Pensavo quando ce ne gestiva qualcosa che sera tua. Viene lì da tua figa ancora non te trovo tu. La vita è fatta rabitat, quando tiene un po' corpo s'adatta. E che adoro che cerca una pappa, vada mamma che cerca una grappa. Quando sembra mangiato con data, quando sembra apprezzata una braccia. Fanci caso che ha provata fama, si mangia non rimane niente in tuo piatto. Cano ricca e no povero, i soliti parlano spesso, capiscono subito. Quando ricca si addorme fi suona, mentre povero ancora fa l'incubo. Quando ricca ricetta e allora che rega tramite potesse distinguere. O povero allora sa isa, se un cazzo fa lacrime e dice. Allora può sapere oggi come mi sente che figlia ma itta che non è felice. Perché rinda classe te comagna soia, te ne già un telefono a bici. Di una di mare, tu quando in famiglia, tu documentata da fotografie. Tu quando l'ultimo modello di scarpe non torna a casa, rindano pulmoni. Allora che songo che tengo che valga. O ricca s'assetta vicino e ci dice andare e una cosa che non sei mai scordata. Chi cresce senza una mancanza, farà sì che altre cose mancanza. Chi cresce già desiderando, farà sì che noi non lavo. Nu giorno quando virare o cielo esplodere. Una gelo scendere là, non mi vede perché. Copri me posso pure oggi abbracciare le mani. Ti abbracciate rimani in maletto con viene. E tutta vita allora passo distratto con niente. Con poco, con troppo, con forse già faccio. Pensavo quando cielo esisteva qualcosa che sera tua. Viene lì da tua figa ancora non ti do.